2010. Voglio raccontare di una musica che nasce dal cuore, fa dritta l'anima. Musica vera, musica sincera, che non nasconde mai la verità. Una melodia originale e mitica, media avvolgente in una nebbia pallida, senza scendere a compromessi con la mentalità di un popolo che ascolta musica squallida. Come on. Dopo tanti anni fatti di musica vera, parole e sensazioni nate in una stanza umida, e fog che racconta in una raccolta di canzoni la sua storia musicale, le sue mille invenzioni. Musica, musica fatta per gente sincera, persone che amano una musica vera, che parla della vita e della società di oggi, di storie passate o di racconti inediti. Rock, crossover e musica leggera, musica alternativa in questa terra oscena. Ideologie dominanti fatte da uomini importanti, a noi basta la musica a tenerci distanti. Da una spazzatura da nome, moda e conformismo, sì. Questo è lo scopo, perché ci tengo a dirlo, okay. Che la verità esiste laddove c'è sentimento, oh. Un'utopia chiamata sogno nel cassetto. Eccomi, presento, mi chiamo artista, un musicista che non ha perso di vista la via della coerenza con se stesso, la strada che ho scelto non porta al successo. Si rimane mortali solo se si è se stessi, se si seguono gli ideali giusti. L'amore per un mondo contaminato da illusioni mi fa prendere le distanze da certe false posizioni. Come on, fuck.